voglia di conoscere i sentimenti degli altri? Avete mai sperato che il vostro amore fosse ricambiato? Se mi vuoi, aspettami e vedrai. Prima o poi, non te ne pentirai. E se vuoi, cercami e saprai. Prima o poi, il mio cuore avrai. Io mi chiedo cosa serve a me per farti cadere. Rifraggia a me se vuoi una rosa. Chiedi a me, spero che il tuo cuore batta per me. Parola per descrivere il tuo amore per me. Ti chiedo solo dell'affetto per farmi capire cosa c'è in te. Ti chiedo solo del rispetto, quindi dimmi quello che provi per me. Ti chiedo solo il tuo respiro per sapere se sei qui vicino. Se mi puoi ascoltare un attimo, capirai, capirai il mio animo. E se puoi, aspetta qui con me. Ed avrai un bacio da me. Io mi chiedo cosa serve a me per farti cadere. E faccia a me se vuoi una rosa. Sa, chiedi a me, spero che tu cuore batta per me. Ti chiedo solo una parola per descrivere il tuo amore per me. Ti chiedo solo dell'affetto per farmi capire cosa c'è in te. Ti chiedo solo del rispetto, quindi dimmi quello che provi per me. Ti chiedo solo il tuo respiro per sapere se sei qui vicino. Ma vieni qui e baciami, perché solo questo aspetto. Ma vieni qui e rendimi il tuo principe perfetto. Annusami e sentirai quell'odore del rispetto. Ma amami, amami, io ti chiedo solo questo. Ti chiedo solo una parola per descrivere il tuo amore per me. Ti chiedo solo dell'affetto per farmi capire cosa c'è in te. Ti chiedo solo del rispetto, quindi dimmi quello che provi per me. Ti chiedo solo il tuo respiro per sapere se sei più vicino.